Abbiamo al telefono una compagna del collettivo Cagne Sciolte. Pronto, ci senti? Ciao a tutte. Ciao a te. Per parlare di un'assemblea, in particolare di un tavolo che si è tenuto sabato scorso ad Acrobax sul pinkwashing. Intanto forse possiamo raccontare dov'era questo tavolo, cioè nell'ambito di cosa? Sì, allora, diciamo che questa giornata è stata organizzata dal coordinamento romano BDS, è appunto una giornata dedicata al boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti del colonialismo israeliano. È appunto una campagna che riprende l'appello della società civile palestinese del 2005 e che ha degli obiettivi molto chiari, sia a lungo termine che a medio e breve termine. A lungo termine, appunto, tra gli obiettivi ci sono la fine dell'occupazione israeliana e lo smantellamento del muro, però a breve termine ci sono appunto vari obiettivi, tra cui il riconoscimento e lo smascheramento della propaganda israeliana, attraverso cui appunto Israele cerca di legittimarsi agli occhi del mondo come democrazia liberale stile occidentale, insomma. E noi, in quanto Cagne, essendo appunto un collettivo di queer, feroce, femministe, LGBTQ, eccetera eccetera, abbiamo deciso di organizzare e di contribuire alla costruzione del tavolo sul pinkwashing. Il pinkwashing, lo ricordo brevemente, è appunto una delle tattiche di propaganda, degli strumenti di propaganda che lo Stato israeliano utilizza, che appunto consiste nel vendersi come uno Stato moderno, democratico, tollerante verso i gay, rafforzando così la retorica che invece definisce come barbare, retrograde le popolazioni confinanti. Tutto questo al fine appunto di non nominare, di nascondere e di normalizzare il colonialismo sionista e l'occupazione militare. Sì, appunto, da qualche anno a questa parte, per indicare tutto questo, si usa questa parola inglese pinkwashing, che sostanzialmente vuol dire il lavaggio rosa. Il lavaggio di rosa, cioè nascondiamo la polvere sotto il tappeto, si potrebbe dire, con un'espressione meno buttiamo poetica. Buttiamo una manciata di glitter sopra lo schifo, insomma. Ecco, sì, cioè nel senso facciamo occupazione, stragi, ma poi ci mettiamo qualche brillantino in faccia. Sì, insomma, le tattiche, le pratiche che il governo israeliano usa all'interno di questo tipo di propaganda sono varie. Vanno dall'appunto pubblicizzare Tel Aviv come meta preferibile per il turismo gay, perché appunto gay friendly, aperta e liberale, al pubblicizzare allo stesso modo il proprio apparato militare, in cui anche i gay possono accedere, uomini e donne indifferentemente. Insomma, noi abbiamo cercato di analizzare un pochino quello che era il sistema propagandistico e abbiamo cercato di darci degli strumenti per riuscire nel nostro piccolo, almeno sul territorio di Roma, a smascherare appunto queste tattiche. E gli strumenti che ci siamo dati, noi abbiamo veramente fatto una lunga discussione, è anche andato abbastanza bene il tavolo, partecipato. C'erano anche, era come tavolo, era molto partecipato, insomma, non era, c'era anche altra realtà oltre alle Cagne, insomma, oltre al martedì, sì, da cui stiamo parlando. Martedì, sì, c'era Profondo Rosa, c'erano varie singole, insomma, singole e singoli. E c'erano, insomma, anche altre compagne di altre realtà che magari non erano lì con tutto il collettivo, ma che insomma partecipavano, anche perché rimane comunque un progetto aperto questo del tavolo. Sì, assolutamente, infatti abbiamo in programma di rivederci da qui a qualche settimana e naturalmente ne daremo notizia, faremo girare le informazioni in modo che chiunque voglia possa prendere parte a questo gruppo di lavoro in qualunque momento, insomma. E poi insomma cercheremo anche in questa fase preliminare, insomma, al tavolo si è detto di cercare di rendere fruibili i materiali d'analisi sul pinkwashing, perché insomma sono anche di difficile reperibilità, molti sono in inglese, invece insomma è stato fatto un lavoro di traduzione, esistono già prese di posizione, adesso Free Palestine può essere un sito che potete consultare già da adesso, ma forse insomma verrà costruita anche proprio una pagina per appunto facilitare l'accesso a questi materiali. Sì, noi vorremmo cercare di costruire una pagina specifica sul pinkwashing all'interno del sito BDS Italia, e poi naturalmente, come dicevi tu, il materiale su cui lavorare è tanto, e quello che noi ci siamo che noi vorremmo fare è cercare di renderlo fruibile, diretto, e insomma diciamo in modo da renderlo più pubblico possibile. Poi dopo insomma anche abbiamo anche tante idee rispetto alle cose da fare, al materiale da produrre, anche a dei momenti comunicativi strade insieme, insomma ci sono parecchie cose da fare, chiunque voglia è ben accetta a farle con noi. Sì, anche perché insomma oltre a essere una cosa molto pesante politicamente, insomma l'utilizzo strumentale di soggettività per coprire il colonialismo, l'occupazione e i massacri israeliani in Palestina, cioè è anche, come dire, una strategia su cui il governo israeliano punta molto, non è marginale. È stato ricordato durante il tavolo che quando è partito l'ultimo attacco a Gaza, dopo l'uccisione insomma dei tre ragazzi israeliani su cui è stata costruita poi quella campagna militare, poi è stato trovato morto, arso vivo, un ragazzo palestinese, e insomma c'è stato il tentativo istituzionale di dire che in realtà era stato ammazzato dai parenti perché gay, quindi insomma di utilizzare questa cosa che noi chiamiamo pinkwashing, per fare un esempio, per dire quanto in realtà il governo di Israele utilizza questa strategia. Sì, perché poi insomma è una strategia che ha molteplici funzioni, quella appunto che nominavi tu è atta a far apparire come incivili, barbari e non degni di umanità i palestinesi tendenzialmente, no? Quindi di contrapporsi noi buoni filo occidentali, noi siamo una democrazia, loro barbari che addirittura, no, brutalizzano i propri figli perché omosessuali. Naturalmente noi non stiamo dicendo che l'omofobia non sia un problema, stiamo dicendo semplicemente che questo tipo di retoriche innanzitutto oltre appunto a normalizzare l'occupazione invisibilizzano anche quelle che sono poi le lotte dei queer palestinesi, che esistono, che si organizzano e che appunto cercano di portare fuori la loro voce, che spesso poi rimane inascoltata. Una delle cose che noi cercheremo di fare appunto con questo gruppo di lavoro sarà anche cercare di entrare in contatto con loro per farci appunto, per costruire insieme qualcosa e per farci raccontare direttamente quella che è la brutalità dell'occupazione vista anche dal punto di vista dei soggetti LGBTQ. E niente. Quindi insomma ci sarà una prossima riunione intorno a metà febbraio, ancora non è stata stabilita se non sbaglio, però insomma quando questa riunione sarà più definita con ora, posto e giorno preciso, sicuramente insomma ne daremo notizia qui dal martedì e comunque dai microfoni della radio, e magari insomma troveremo anche altri modi per allargare. Va benissimo, grazie. Grazie a te e ci risentiamo presto. Ciao. Ciao.